Sono venuto al mondo, un solo respiro senza il secondo. Poi mi hanno rapito e riempito il cielo di piombo. Sotto il passamontagna funzionari alla fame per i salari. Mi strappano i miei fratelli tra gli spari. Poi il cambio fu favorevole, scambio con l'onorevole. Giro delle due Americhe, sosta in cassette iberiche e via. Faccio qualche anno parcheggiato, nascosto allo Stato. Euro rubato dell'euro deputato, sì. Dopo di nuovo fuori dalle banche, scambiato per un'ora di una troia col cazzo nelle mutande. Mi girano e tirano linee bianche, vivo con la paura, queste accendono paglie col contante. Poi ci fu la rapina e fu di un poco di buono di comasina, sì. Sparato per storie di cocaina. Poi un agente mi ha raccolto dal morto, una luce fluo gli racconta che sono vero e quindi ora sono suo. Rientri nella cassa, riempici la vasca, lascia quella tasca, gonfiala da pascia. Troppo non ti basta, sei un corrotto, basta. Gelo è un Alaska, zero euro in grassa. Riempiti la cassa, riempici la vasca, lascia quella tasca, gonfiala da pascia. Troppo non ti basta, sei un corrotto, basta. Gelo è un Alaska, zero euro in grassa. Fai sto codice segreto, lontano dallo sguardo indiscreto. E il bastardo ti sta dietro, riportami da Ciro, sì. Di là dietro San Siro, sì, sì così Cirosi, sì. Non prenderlo mai in giro, mi arrotola e fa un tiro. Conte miei fratelli e ci fa belli con lo stiro. Bordelli con me in giro, c'è gente dalla liquidità ingente. Compro una quantità somma, forse se ne va in coma. Ora stringo mani unte, l'onorevole ha lei in mente. La moglie chiama a mente, mi fa aspettare mentre la bionda fa il merengue, lo pompa, gli affonda unghie. Lui è venuto in un triste minuto e 25 ansia in questa transazione. Ma che bella sensazione, lei mi abbraccia, mo lavorerà in televisione. Verso rosso resto sporco, so che vuoi vedermi doppio, scalda l'oppio e fallo, stando zitto parlo. Riempiti la cassa, riempici la vasca, lascia quella tasca, gonfiala da pascia. Troppo non ti basta, sei un corrotto, basta. Gelo è un Alaska, zero euro in grassa. Riempiti la cassa, riempici la vasca, lascia quella tasca, gonfiala da pascia. Troppo non ti basta, sei un corrotto, basta. Gelo è un Alaska, zero euro in grassa. Ehi, ehi. Quante mani mi hanno stretto, dato per un sacchetto, con un panetto da un etto, dentro nel materasso, così mi portano a letto, sì. Più alta la pila, più è vero il rispetto. Sanno dove trovarmi, questo è il nostro segreto, hey. Sanno dove lasciarmi, se hanno qualcosa indietro, hey. Ed ogni notte faccio un sogno, sono come il sole, sì. E tutto il mondo mi gira intorno. Salvador Dalifra, disponibilità giornaliera non è mai esaurita. Quando passo la frontiera dolce vita, una doccia cambio faccia e la fedina ritorna pulita. Fumano nervosi, bingo, li convinco come un mago con l'ipnosi. Li piego scogliosi, la strada mi stropiccia, abuso su due sclero. In banca massiccia pelliccia, fa sotto zero. Soldi, soldi, non chiedere da dove provengo. Soldi, soldi, soldi, non chiedere da dove provengo. Soldi, soldi, soldi, non chiedere da dove provengo. Provengo, soldi, soldi, soldi, non chiedere da dove provengono. Soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi, soldi.